paese è profondamente diviso, ci sono delle profonde difficoltà, vige praticamente una situazione di caos, perché queste elezioni, piuttosto che polarizzare verso le riforme o verso dei programmi che potessero essere utili per la crescita del paese, si sono richiuse su se stesse e sostanzialmente intorno a slogan e una polarizzazione politica estremamente forte. Quindi il paese, che avrebbe disperato bisogno di essere guidato bene, di essere riformato, portato fuori da una situazione di crisi economica che in fondo poi non è neanche così grave come può essere in altre realtà anche del subcontinente, ma che andrebbe in qualche modo governata, e purtroppo non c'è nessuno che sembra in grado di farlo. Il governo uscente è stato deludente e sostanzialmente anche la situazione delle elezioni è un riflesso anche della delusione, insomma, rispetto al governo precedente, per cui il Brasile avrebbe bisogno di un ottimo governo a prescindere probabilmente dal colore politico, ma l'orizzonte non si vede nulla di questo. In realtà, considerato il numero di sondaggi che viene fuori praticamente ogni giorno e l'attendibilità che io personalmente do ai giornali brasiliani, è anche difficile fare una stima di quello che succederà, però sostanzialmente la corsa è a tre tra Haddad, che è il rappresentante del Partito dei Lavoratori, quindi di Lula e dell'ulismo, Ciro Gomes, che sostanzialmente è rappresentante del Partito dei Lavoratori Democratici, raccoglie tutta la parte di centrosinistra dissidente rispetto al PT, il Partito dei Lavoratori, che pure è abbastanza consistente, e Jair Bolsonaro, che ha addensato su di sé, oltre che l'estrema destra filodittatoriale, dichiaratamente antidemocratica, misogina, omofobica, che tra l'altro Bolsonaro rappresenta da sempre, anche prima di essere candidato alla presidenza, ha raccolto intorno a sé l'onda populista e quel qualunquismo un po' cafone, insomma, che lo caratterizza. In realtà, oltre a questo che dicevo, ha sempre rappresentato, si sono aggiunte tutte le destre, proprio perché, come dicevo all'inizio, il partito è in profonda crisi e anche i partiti che hanno sempre rappresentato anche l'elite, diciamo così, economica, anche neoliberale, se vogliamo, ha perso un po' di appeal, per cui lui intercetta, come dire, il disappunto di una gran parte degli elettori di centrodestra e di destra, e poi tutta quella parte, insomma, un po' più di estrema destra. Noi vediamo ad esempio che il Partito Socialdemocratico, che era arrivato alle scorse elezioni a un palmo da Giuma e che è stato artefice dell'impeachment alla presidentessa, ha pagato il ritorno, l'onda lunga, insomma, delle inchieste dell'antipolitica, e il candidato del partito, Kim In, praticamente fuori dai giochi. Fuori dai giochi anche Meirelles, che sarebbe il rappresentante del Movimento Democratico Brasiliano, che è il partito del presidente Michel Temer, che non è stato il governo forte del quale il Brasile aveva bisogno e ha un indice di approvazione, insomma, prossimo allo zero. Per cui, in assenza di tutto questo, i voti si sono riversati tutti su Bolsonaro, che ha anche raccolto intorno a sé il disappunto nei confronti della corruzione e del malcostume dei politici, ma anche lui non è immune. Però purtroppo sappiamo anche da altre esperienze, insomma, in altri parti del mondo, in realtà parzialmente anche in Italia, che quando poi si punta alla pancia, un certo tipo di elettorato è raggiunto e cominciano a diffondersi un certo tipo di idee, poi è difficile arrestare quest'onda. Per cui questa è la situazione attuale. La campagna si è giocata tutta su una sorta di pseudo ideologia, sulla pancia e poco sui programmi, molto su slogan, personalismi e fake news, come se piovesse, tra l'altro. Per cui l'unica cosa che appare chiara è che se vincesse il centrosinistra, diciamo così, o Haddad o Gomes, poco cambierebbe dal punto di vista anche delle politiche economiche, e probabilmente qualcosa dovrà essere per forza fatto, ma non ci sarebbero grandi rivoluzioni. Se vincono gli altri, vince il centrodestra, diciamo che, per quanto mi riguarda, soprattutto per chi come me ha un occhio sospetto sempre all'ambiente neoliberale, la cui onda lunga ha investito comunque tutto il subcontinente, è chiaro che molto si gioca intorno alla privatizzazione o meno delle aziende energetiche di Stato, Petrobras prima di tutte, e anche una serie di privatizzazioni e speculazioni che potrebbero colpire il paese con effetti imprevedibili, ma certamente non si possono dare previsioni positive. Per cui la situazione è molto caotica, l'economia, come sappiamo, non segue la pancia degli elettori, e sostanzialmente, come dire, se non ci sono risposte, poi i sistemi economici si sistemano intorno a delle logiche che puniscono comunque sempre il più povero, per cui questo si ritorce anche contro quella fascia di popolazione che era stata beneficiata, insomma, dai programmi del centro-sinistra. La violenza dilaga, non solo come effetto della povertà, ma comunque la situazione è questa, quindi caos politico, smarrimento, perché io, parlando con i miei amici giù in Brasile, sento molto smarrimento, molta confusione. Quindi sarebbe importante un governo serio, ma non so fino a che punto si avrà, o comunque non è chiaro quali siano i programmi o le idee da mettere in campo. Ecco, ti faccio un'ultima domanda, nel senso che hai già riassunto abbastanza bene come si sta arrivando a queste elezioni, però provando a fare una alla stretta sugli ultimi anni, diciamo. Ora provo a farla io, nel caso correggimi tranquillamente, però negli ultimi anni c'è stata tutta la questione della corruzione, con poi l'impeachment contro Dilma Rousseff, poi che da alcuni è stato definito un golpe bianco. Ora c'è stato l'aumento delle violenze, lo scorso febbraio c'è stato anche l'aumento dei poteri discrezionali all'esercito, in teoria nella guerra contro il narcotraffico, ma poi nei fatti si è tradotto in maggiore violenza negli scorsi mesi. Bolsonaro, che in questo momento è favorito, è l'ex capo dell'esercito ed è un militare che tra l'altro è alternativamente negazionista o positivo nei confronti della dittatura militare che c'è stata in Brasile, e anche la situazione economica, diciamo, è molto grave. Quindi insomma tutti questi fattori sono fattori che nel passato hanno portato appunto a golpe e dittature in tutto il Sud America, e quindi ti vorrei chiedere: è a rischio la democrazia o invece stanno semplicemente vivendo lo stesso processo di populismo e estremismo che stiamo vivendo anche noi in Europa? Ma sinceramente dire che sia in pericolo la democrazia sarebbe un attimo azzardato da parte mia, e non credo di arrivarci. Che sia in crisi la democrazia o che ci siano dei modi diversi cui approcciare ai processi democratici, quello è evidente, e come dicevi tu e condivido, è un processo che si sta muovendo in tutto il mondo sostanzialmente, e nel subcontinente sudamericano, latinoamericano, comunque ci sono questi fenomeni. Rispondendoti a Flash, Lula e Dilma sono stati battuti con mezzi democratici e ufficialmente legittimi. Poi quanto siano stati forzati, questa è una bella domanda, e probabilmente la verità giudiziaria è stata scritta, ma quella storica avrà bisogno di un po' più di tempo per venire fuori, perché Lula è stato condannato, e prima di dire che si sia trattato di una condanna politica bisognerebbe provare che tutti i giudici di tutti i gradi di giudizio e tutti i gradi di ricorso abbiano avallato una sentenza politica antidemocratica. Potrebbe anche essere, ma prima di dirlo bisognerebbe avere delle prove molto più forti, e non ci sono. Per quanto riguarda il golpe bianco di Dilma, bianco appunto nel senso che non è stato un golpe militare, ci mancherebbe, ma è stato fatto attraverso mezzi democratici e, dicevo, ufficialmente legittimi. Quindi anche in quel caso la verità giudiziaria, la cronaca politica probabilmente danno un panorama diverso rispetto a quello che potrebbe dare la verità storica, per la quale però ci vuole tempo perché venga fuori. Per quanto riguarda la violenza, l'intervento militare a cui facevi riferimento tu, sul quale ho scritto anche di recente, riguarda solo Rio de Janeiro, solo la città di Rio, e gli indici di violenza si sono praticamente quasi raddoppiati da quando è iniziato l'intervento, perché la polizia interviene sempre allo stesso modo, non c'è un intervento dal punto di vista dell'intelligence nel contrastare i gruppi criminali che invece sguazzano e fanno gli affari loro. Il problema è che anziché concentrarsi, e questa è una cosa storica che ho messo in evidenza anche nel libro che ho scritto, oltre che nei miei articoli sempre, il problema è che viene identificato il nemico con tutta un'area povera, in quanto povera, in quanto abitata da persone povere che, condividendo quello spazio con i trafficanti, devono essere per forza visti come trafficanti, ma che in realtà non lo sono. Per cui la favela in generale, a Rio de Janeiro in particolare, viene identificata come il territorio nemico da conquistare in una guerra. Per cui se tu non fai indagini contro i criminali, non ne arresti nessuno, e quando la polizia entra uccide praticamente sempre degli innocenti, è chiaro che i risultati sono soltanto dei numeri appunto di guerra, ma nessun risultato in termini di buone pratiche della polizia. Per cui abbiamo che da quando è iniziato i primi 9 mesi di quest'anno ci sono registrati 4.200 omicidi, e la polizia ha ucciso 1.040 persone nei primi 9 mesi dell'anno, che è il record assoluto degli omicidi da parte della polizia in servizio da quando viene registrata questa statistica. Per cui il problema è, e la grande domanda sarebbe, qual è il piano, diciamo, di sicurezza per evitare tutto questo da parte del governo? Non lo sappiamo. Certamente Bolsonaro, come tu facevi riferimento, non è un esempio di democrazia, perché lui si è espresso più volte per la castrazione e la sterilizzazione di uomini e donne di favela perché non riproducessero trafficanti e banditi. Queste sono le espressioni che usa lui, non ho parafrasato purtroppo, e lui pensa sempre alla storia del bandito buono e quello morto, praticamente propone che qualsiasi persona si avvicini alle proprie abitazioni venga uccisa senza pietà. Per cui per quanto riguarda la sicurezza, Bolsonaro alla presidenza a me un po' di paura la fa, confesso, anche perché, come dire, occupandomi, diciamo, di politica di pubblica sicurezza in Brasile da molti anni, ho abbastanza il polso e mi rendo conto che dare briglia sciolta alla polizia in Brasile in generale, ma a Rio in particolare, potrebbe avere solo effetti deleteri, e questo è uno dei grandi problemi, perché poi in fondo anche gli altri candidati non parlano di questo, nessuno dice nulla di questo. E non è solo Rio de Janeiro, perché per concludere, l'indice più alto di violenza registrata nella storia da quando si registrano queste statistiche in Brasile l'anno 2017 2017 e il 2018 sono i più alti anche per il numero generale di omicidi, che sono 63.000, 64.000 all'anno. Parliamo solo di omicidi volontari, cioè voglio dire, sono dei numeri raccapriccianti. Per dare una misura, lo stato di Rio de Janeiro ha 11 milioni di abitanti, la città poco meno di 6, e ci sono stati 4.200 omicidi, di cui 1.040 ad opera della polizia. In Italia lo scorso anno, nel 2017, ci sono stati 343 omicidi complessivi, quindi questo dà molto l'idea. E purtroppo, sia dal punto di vista dell'economia, sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista di tante altre misure, non ho letto grandi cose, soprattutto oltre la, come dire, la battaglia politica un po' anche violenta tra i candidati e le parole di Bolsonaro che fanno raccapriccio tutti i giorni, non ho sentito molto altro, per cui voglio dire, io non vedo un futuro roseo per il Brasile. Staremo qui a testimoniarlo, insomma, e a raccontarlo, nella speranza che esperienze altrui possano servire, anche se questi mesi io comincio ad avere anche i dubbi che la storia possa insegnare, visto che si sta riproponendo in molte parti del mondo una storia che pensavamo fosse superata, invece purtroppo diventata di nuovo attualità.